cioè, e cosa ne ha avuto? Perché non si sa mai chi trovi per la strada. È quello che dico io, non conviene mai a dire nulla, fare nulla, perché tanto poi trovi magari quello pazzo e ci perdi sempre. Ma a proposito, ieri alla Moody Moody cosa è successo? L'avete saputo? Boh, non lo so. Aspetta un attimo che scendo giù a fare bisogno. Forse qualche incidente grosso, c'è un po' di gente, dici, caso vicino. E sul giornale non ce l'hanno. Oggi vuoi subito la sala d'ubizio. Cosa? Ho detto che Pontortore ci hanno chiuso presto. Io dice la sera a tardi. Il 12 sul 12 ho fatto una spazzolata, non ci sono più. E cosa c'entra? Ma è sabato e la domenica? Se lo possono permettere, Antonello l'ho lasciato un po' presto. Vediamo lo stesso. Il sabato e la domenica ci sono sempre. Ma il lunedì no. Non penso. No, che c'erano poco fa. Stai dicendo. C'erano poco fa, forse hanno chiuso perché devo andare a lavorare domani, quello sì. Ma poco fa c'era. Io mi sono sentito per telefono. Non c'è problema. Non c'è, vedi, a proposito di dolcetto, vedi? Io una sera, una fiesta, una merendina, un biscottino, sempre lo devo mangiare. Ecco mi sono arrivato goloso. Cosa, Gio? T'ho detto goloso. Ehi, anche la moglie te l'ho fatto. E non sto mangiando noccioline, non me le sta comprando l'aria. L'altra volta ne ho pagato un pacco al barca. Due disciodurati, ma dove sono le noccioline? Mangiate, tu non le vedi più, non te ne porto più. Quelle salate mi che mettono agli aperitivi. Ne ho pagato un pacco, l'hai giocato umano, in due di non vedi mai più. Vuole che ti imbiatere. E lo so, ma fanno male perché sono salate, fanno ingrassare, capito? Ma detto, a te ne porto più, e vabbè. Come prima la sera quando chiudevano, magari avanzano quelle due, tre, quattro paste, le portavo a casa. Avanti di dieta, ma non ne boccia più. Perché ti fa ingrassare, ed è peggio per te, quindi se ci tiene al padre, è normale fa così. Della mia bugione di Bignano, conosci? Sì, io lo conosco. Lavorava anche l'aria. Lo so. L'aria è brava a fare dolci mi attorno. Quelli che vedi in qualcosa rotondo, qui ci scrivi, quelli fai l'aria. Ah, capo, ma in Bottecceria ha lavorato? No, l'alberghiero. Lì ha fatto il corso proprio per, lì all'alberghiero del pasto, non so cos'è, pasticceria, boh, non so. E poi il diploma c'era di sale e bar, di quinta però e non di terza. E l'ha fatto tutto intero. Capo, è meno male, dai, almeno, li fa lì quello, lo rifà. E invece le passate prendete da, li fa, ho visto che li prendono una pugione, adesso un accanamento qui. Un po' saltiva, no, c'è una pugione secchi, c'è due ce li ha. Oh, bravo, faccio le ciambelle, ragazzi. No, già non è per me, è per la mamma. Mia moglie è ancora più veloce di me, capito? Lei tutti i santi giorni mangerebbe le paste, tutti i santi giorni. E quindi no, non è posta per quello. Io già mi privo, non le mangio tutti i giorni. Adesso c'avevo un po' la bocca amara. Allora, per mangiare una caramella avevo mangiato una fiesta di quelle piccoline, niente di che, no? Allora te la racconto una, il bugione. Pigliava la bombola da noi. Un giorno non gli ho fatto un piacere perché l'ho promessa a un altro. L'ho promesso, infatti si ricorda sempre di me. Dalla volta che non l'ha già fatto che subito a dire, no, è cominciato già a rompere e poi non ci ha telefonato più. Capito? Ma ti pare che io l'ho già promesso a un altro, è roba di voti, mi. Ti ricordi che era candidato a Medeo? Io non gliel'ho dato, tutto non mi piace, ho battito. La giovane ha cominciato a offendersi e a cambiare carattere. Sì, deve essere occupato, Claudio. Lei la vuoi. Comunque le paste migliori a Sassari le fa sì. Secchi, tutti i pasticceri di Sassari ha riparato da lui. Secchi è storica come pasticceria. No, sono qua, Anto, sono qua. Sì, sì, sì. Ma è un po' così, dai. E ma non pensare che il padre era meglio. Ho pigliato il garante dello babbo. No, ma anche mia figlia c'ha secchi. C'ha secchi e poi c'ha Pugione perché sono amici e quindi le porta anche lui. Poi fa le torte molto buone Pugioni, Pino Pugioni è stato, dopo che è morto Moritto, Fausto Moritto, era lui il presidente del pasticceri, adesso in pensione. Bravo pasticcere Pino Pugioni, alla grande. No, sono buone le paste, ma non ho niente da invidiare con quelli che sono buoni, sono buoni. Soprattutto le cassate, i diplomatici, perché loro sono abituati a fare molte torte, capito? Sulle torte sono bravissimi. Gabba gabba! Bravi, sono Moritto. Prova a assaggiare i bici in base, tenere anche le baffe, soprattutto le cose, le pesche. Siamo fatto la rivendita in via Pascoli adesso. Buona rete, Giovi Simbatti, mamma mia. Anto, ma vieni un servizio, ci sono? Sì, guarda, c'è un laboratorio. Ah, e lì hanno fatto dei gusti. Mamma mia, che cosa buona che... Hai visto dove già? Di fronte dove abitavo io all'angolo, dove c'è il garage, proprio lì, attaccato. No, non è lì, è dove c'era il fioraio prima, vicino al Moccadore. Ah, è quello che c'è lì all'angolo della rotonda, cos'è? L'angolo della pasticceria, cos'è? Di Galeggio. Quello è Masì. Ah, io ho preso i cannoli di ricotta, è molto buono lo stesso. Ma come ti cose non fai niente, cioè, sono bravi pasticceri, sono. Cavolo. Chi sono dolci ne va zumbè? Poi c'è l'altro latte dolce. Quello dove hai preso tu la pasta una volta, qua. Cazzo, fate dei dolci buoni, mamma mia. Quello è Secchi lo stesso. Quello è uno dei nipoti di Secchi, si chiama Secchi lo stesso. Non è quello come si chiama pasticceria. Oh, ma io... Quando ho fatto 30 anni d'aria abbiamo fatto la festa in campagna, la torta l'avevo presa da Moritto, la pagola l'aveva fatta lui, buonissima, splendida, non buonissima, splendida. Pagola è buonissima, anche io mi sento buonissima. Sì, sì, sì, infatti dovevo fargli la Pugione, poi l'aria ha detto no, non me ne fare, ma intanto festa non ne facciamo, qui e là, capito? Aveva raccontato una balla e l'avevamo presa, l'avevo fatta fare da Pagola, perché ero andato al compleanno della figlia di mia nipote, la figlia di mio fratello, a Porto Torres, i padrini sono di Sa, il padrino è Antonio, capito? Antonio Benilli, Antonio Biscivendolo, con la moglie. E quindi Antonio è passato a Pagola, ha portato questa torta che era una cosa micidiale. Hai trovato, ma dove è questa torta? Ah, Moritto. Ho comprato l'aria, l'ho fatto fare a Moritto. L'ho fatta fare a Moritto, buonissimo. Sì, sì, sì, sono buona. Io tutte le torte dei miei figli le ho fatte lì. Anche le paste, tutte queste cose le compro. Sono molto bravi. E ce ne sono tante altre, quasi ci sono conosciute. Poi dice no, quello che c'è al monte che le fa un po' dolci, però sono meno conosciuti come no, dai. Molti ce ne sono, dicono che Vanari lo stesso è bravo, ma le paste Vanari non piacciono. Io facevo colazione al quadrato, prima c'erano le paste Vanari e di Masia, non Biasia. Adesso vado al Tris, che c'ha Secchi e Pugioni, oppure, vabbè, a volte vado anche a mia figlia, ma mi dà fastidio. A chi non pago, quindi vado per i fatti miei. Oppure da Sandrino a via Napoli, lo stesso che c'ha Secchi e Pugioni, la roba è buona. Gappa gappa, che ne so, le 10, mamma mia. Una volta siamo andati con un amico al Tris Bar, abbiamo visto questa esposizione di pasti, io mi sono fermato da parte, ma tira due da che ci non me l'avevi aiutato, che ci sa vetrina che poi. Lascia perdere, però certe vetrine che cazzo me. C'ho la guardare e mi scende la mamma, mamma mia. Ma lì c'erano quelle paste che piacciono a me, cazzo, quelle con la crema, mamma. Cappa. No, a me già mi piacciono, parole più buone sono quelle di Moritto, cioè Moritto è qualcheduna da Masia pure latte dolce, sono molto buone quelle paste, non Masia Ghiddu Livio, l'altro Masia, quello che c'è latte dolce, che c'è in via, come ti si chiama? Quella via che c'è lì, dopo il Marsanna, via Vivaldi lì. Chi si sono buoni le basse? Anche quelle del Marsanna sono buone, io ho fatto colazione di una volta che sono andato a farmi le analisi, quando esci tutto svenato di sangue, vai a fare colazione, sono andato a fare colazione lì, le paste erano veramente buone. Sì. Sono buone, sì. Non so se dipende da cosa, da Masia lì, cioè, però non è Masia chi subire in bocca e non, è l'altro Masia, perché ci sono altri Masia, ma quello li fa vero artigianale, li fa come una volta, poi c'è l'altro che le fa buone lo stesso, quella pasticceria lì vicino al Bar Domenico, latte dolce, sono molto buone, fa certe torte, ma buone però. Sì, no, già sono buone le paste, tutte portate a mangiare, se non devo mangiare c'è ancora bici. Io prima le paste non è che ci andavo matto, sì qualche volta le mangiavo, ma proprio dravo. Adesso che non le posso mangiare mi viene tipo un drogato, insomma. Lo so, ma è già rimagno via. E tu grazie a Dio non c'è niente. Però non bisogna mai approfittare troppo delle cose, perché le cose mangiate garantamente, bevute garantamente fanno bene, quando esageri poi fanno male, come in tutte le cose, anche l'acqua fa male se esageri. Lo so, purtroppo è così. Diciamo che siamo in gordia, a volte i papacini non ti piacciono, mamma. A me piace questa roba già. I papacini, cavolo, mi piacciono bene, quelli di 17 anni, mamma mia, quanto sono buono. I papacini, sai i papacini più buoni in assoluto che ho mangiato? Era vino rosso, poco tollaci. Buonissimi, proprio queste su tu, si sentiva l'anice, anche le frittelle buonissime, io conoscevo la mamma, tutte le domeniche, non c'è niente da fare. Vai da Gavino a ritirare questa roba, andavo, mi abbasso io i papacini, le frittelle, i dolci di Gavino, molto molto buoni. E a Ponte Romano. Esatto, il poverino è morto. E che c'è? Io ho mangiato le paste a Porto Torres. Ma buone però, chi le fa? A Ciao e il Battistano le fanno buone. Non lo so, io ho mangiato. Ho mangiato, però cavolo, ma buone barome. Dove le mangiate? La via principale. Ho mangiato in quel cavolo di cosa dove sono andato anche a mangiare, che non ero contento, guarda lo sport lì. A Basport le mangiate, piazza del comune. A Basport sono del cristallo, perché Francesconi, che è il genero del cristallo, è il cognato di Sergio il Giudice. Ho mangiato lì, ed erano buone la verità, però non mi è piaciuto il locale, cioè perché, cioè non è che non è locale, che ti ha regalato un piatto di ragliata. Ma com'è che è un piatto di ragliata? L'ha giunto di Gingiano di portarmene, e mi ha portato, cioè non tanto che mangia, manco un cane in Romagna, non mangia la ragliata isso. Cioè, da me, prima mi ha bucato un sacco di antipasti. Ma poi mi ha bucato un bucato di gigione così. Ma gli ho detto che non ero contento. Sì, io ti attacchi. Ogni volta, se quello che dico io, fa un casino nero, se si vuole anziché. Il padre, loro no, il padre Luciano. Sì, signor Luciano, mamma mia, ti attacchi. Instagram, mamma mia. E c'è che quando andavo le partite, si affarava con tutti, un casino. Era io, ma c'era il vecchio giù. Ma tutti i sovizi vanno in profondora, sempre li guantano a piccate, perciò. Tutti i guantoni vanno, e poi sono i più suonati che vi so. Oh, yeah. Gabuciano viene voluto, guantone. Uno veniva con l'odore quando ero ragazzo io. Ogni volta che scendevo allora stava la greffa mia, era lì. Piazza della Consolata, Piazza del Comune, c'era la Vasca, non so se già ne l'ha conosciuta. Non era così Piazza del Comune. Per esempio, che tamania. Ci occupa di quanto è la bacciccia, ci occupa di quanto è la bacciccia, ci muoia in guardia. Gianni già sai che sto parlando. Ma no, io è fine, ma fine ragazzi, ma parlo ma, qua è fine, io ti dico un ciaffo, sei parato, senta la matta di un bello. Sì che l'ho conosciuta a casa la Vasca, certo. Sì, una cosa allucinante, era una cosa allucinante, per carità di Dio, cazzo. E stavate in vai quanto, oh, ti rimuovo come furano, cioè ti sto dicendo di finirla, che mi sembra uno scemo, con questo cazzo di mani, in guardia, ma che guardia devi fare, cazzo, ma la conosci a voi, ma via, di mai. Allora, poco fa se c'è un po' la fissazione del cugino, è proprio una cosa che viene da sacco, proprio. Ce ne sono quelli tutti da poco fa, ce ne sono anche bravi. È stato sempre così, c'aveva la palestra in fondo in via delle Vigne, in Mura, non so se tu lo conosci, mi fa. Altre 60, sono grande io, chi? Io sono nato con quella gente, già, sono nato proprio perché Pinura abitava in via Libio, c'aveva il cosiddetto in via Libio, e con Gabino Iacomini ho lavorato all'autoparco del comune e lui era lì, poi c'era un sacco, già lo so, e ma la mania era vostra, va bene, voi. Qualcuno non è uscito bravo, ma qualcuno non è uscito sconfitto. Qualcuno è uscito sconfitto veramente, quindi, però ti ripeto, a me non è mai piaciuto il pugilato, ma io mi difendevo come potevo difendere a voi, e dici fin di anni i bugni, non ti preoccupate, a vicinare a voi te lo do io i bugni. No, noi, la gran famiglia, io, Silvano Crovedo, non so se lo conosci, quello che aveva lì in piazza, Carlo Caravagna, Gavino Caravagna, Tino Bonomo, chi c'era poi? E ce n'era, eravamo tutti lì alla... facevamo tutti giù, ho capito? Siamo ritirati tutti quasi come Roma. Io, Tino e Silvano eravamo a Roma. Avevamo perso l'interfaccia per me era a Roma, ma perché abbiamo fatto gli stronzi. La sera ci aveva fatto uscire il maestro, allora c'era Giovanni Satta, Domenico, c'era Domenico Fusco, Giuseppe Giordo, la buon'anima di Maurizio Grassi, Roberto Boselli, era una bella greffa, avevamo un bel forte. Siamo mezzi cicciati, la mattina siamo andati a fare il peso, eravamo fuori il peso e ci hanno eliminato tutte e tre, e quindi non abbiamo potuto fare gli esami, se no eravamo molto bravi. Gli altri invece stavano, era sempre questa maniera bugirata, ma metto a Costantino Guccoido, non so se lo conosco, Costantino Giotto, che era per fare il balle a Tino. Tino Bono in piazza una volta ha detto Tino, io adesso basta, non c'è da prendere il bale, ma via, ricordo l'ultimo comando, questo io lo giuro, va bene, dopo ti abbiamo girato, fai uscire, tu fai, come è andato a partirle a pugni, si gira a Dino, con una spazzata ha fatto la capriola, boom! Ta vicina da là, la vicina si è trovata a pigiare, tornati a avvicinare, si è trovata a vicina, si è girato, gli ha messo il piede in mezzo alle cosce, ha sollevato in aria 2 metri, non si è più pigiato, o io alla schiena, o io alla schiena, la vicina, ti fammi vedere i bugni, barò. Marco di Gardena, raga. Ah, Tino era bravo, Tino era stato convocato anche nazionale italiano, ma stai scherzando, bravo a ridere, c'era una forza, un fisico, cosa ridere, io infatti in palestra facevamo sempre le prese tutti assieme, soprattutto io e Gabino Caravagna che era molto grosso, non so se lo conosci, ti bravo già, e ci vanno provendo lo stesso, capito? Se è vero, non è possibile, non è Ronaldo, no, ma era 2 giri. ci devi stare, perché il casino è quello, il casino è... Ma tu te la ricordi il bar Cristallo, la sceriffata che era successa con quella nave, con la Sancoline, te la ricordi quella nave giapponese che attraccava al pontile al pontile, stava in radar, scendevano con i barcaioli a terra, te la ricordi già? Sì, la nave sì, non mi ricordo questa sceriffata che c'è stata. Allora c'era il Bar Cristallo alla grande, e in voga c'era la greffa di Fortunato, Fortunato Occulto, Gabino Iacovini, Mario Altana, Lupiglio di Magnabescio, Vera Baccagliati, vabbè, la greffa lì, no? E in pratica sono scesi questi giapponesi dalla terra, sono arrivati a terra con i barcaioli e sono andati a far colazione al Bar Cristallo. Sono andati, io ti giuro, non ho mai visto una cosa del genere, io ero barista al Bar Cristallo. I baristi la mattina eravamo io e Antonio Rosseddu, è vivo e vegeto, di Porto Tosio, glielo puoi chiedere. Aspetta che stacco. Abbasso la potenza perché devo farti un passaggio un po' più lungo. Eravamo io e Antonio Rosseddu, avevo forse 14-15 anni, perché a 16 anni io ero già a Leni, che sì, forse 14 o 15 anni. Arrivano tu questi giapponesi, sai, tu mai l'hai visti come i film di Bruce Lee, così non ho vestiti questi. Onde ne so i sindaci? La Sancoline era una petroliera che allora Leni, che era Sir, no? Era la vecchia Sir, quindi arrivava il petroliere col grezzo, no? E siccome era talmente grande la Sancoline era, cazzo mi pare, per andare da Poppa Prua ci avevano le biciclette, infatti Rugotto, una cosa enorme. Ma enorme, Gianni già se la ricorda, e stava in radar sotto la Ginara, perché non poteva entrare in porto, capito? Non poteva attaccare neanche al pontile della Sir, perché è piccolo, non c'è fondale, enorme, una petroliera enorme. E so fare di chi si invariano in setto, andavano i barcaioli a prenderli, no? E li portavano a terra per i viveri, però si sono fermati al Bar Cristallo a fare colazione. Manca a fare apposta, era di domenica mattina, ma lo ricordo come oggi, perché non ho mai visto una cosa del genere. E sono state, meno per mezza, le 10. Manca a fare apposta, c'era la greffa di Fortunato Occulto, che già mi sa chi è, con i suoi amici, capito? I divi di Hollywood, i picchiatori produttori. Come sono entrati, con queste tute un po' particolari, sai, con i bottoni davanti, come si vestono i giapponesi, atleti, e botte da Dennis, tutte sì, mi pareva, un 6-8, non mi ricordo. Entrano come entrano, sono entrati, loro erano al Macone che stavano, c'era anche il comandante Giuseppe Carucci, non so se l'hai conosciuto, abitava attaccato a mano, il comandante proprio di Navi, poi ha fatto il comandante lì a Porto Cervo Marina era comandante, c'era anche Giuseppe Carucci. Sono entrati e subito Fortunato con Mario Altana, e cos'è? Cosa ha messo? Ha detto, cosa state girando? Il film di Bruce Lee, ha visto la vita giapponese, ce l'ha mai dato con quegli occhi, sai, quegli occhi tirati, ha detto Antonio Rossi, tanto qua c'è qualcosa che non funziona. Ah vai, stanno scherzando, ha fatto un'occhiata un po' brutta questo giapponese. Sono messi al banco, il banco del Bar Cristallo è molto grande, sono messi all'angolo, ha iniziato a ordinare e gli biglietti di Baroguru, pieno di Baroguru. Fortunato aveva proprio un attacco a brighe, cosa faceva? Si andava vicino e lo toccava, e allora, questi occhi che c'hai, è perché sei così basso, e cosa sei venuto a cuffare qua e qui e là? Anto, il tuo giapponese, ma sarà stato 1,50 m, ha messo la mano sopra il bancone, cazzo quanto è alto il bancone del bar, ha posto la mano in alta la manca, si è alzato minimo 2 metri in aria, racconto, mi sta guardando in piedi a faccia, uscito sotto la domancone. Che guasto, un gatto, per carità, che gente guasta. Adesso potevano darle un po' di rispetto, cioè cosa loro da dire a vendi? No, Eddie Babiaga è pigliato a Roguro. Io sono guasceve. Un po' di rispetto. Non è finita, non è finita. Perché lì poi si sono messi tutti gli altri sei. Cazzo, non ci comprendiamo un cazzo. Un casino è. Allora fuori! L'hai invitato a uscire fuori a tutte e quattro! Fuori! Fuori! Hanno distrutto il baratto! Li cadrei! Allora di regna, non di bar, di regna! I cutechina, i paccardi! Cazzo, hanno fatto un casino! In 5 minuti! Finimondo! Si è riempita tutta la piazza di gente! Tutti da me! Piccali, piccali! Un circo, tu mai visto mai già? Un circo, un circo, carabinieri, polizia, e allora c'era il varco aperto, erano venuti i finanzieri, un cazzo riusciva a separarli, scimmie, brincavano da un punto all'altro e marciapiedi, ma sussa che non è biliardo tutte e quattro. Il bigliatore è molto dorante, no? Sì, quando erano in greffa, mi chiamano, aveva un lavoro, ricudia. Mario Fanti della greffa, no? Cosa già? Che c'era anche Mario Fanti da buon anno. Mario era mio cugino al secondo grado, ma Mario non ne faceva di queste stronzate. Mario ha avuto una delusione dal pugilato, era bravissimo, bravissimo. Mamma è Falchi, il padre di Mario era praticamente non il fratello di mamma, fratello del fratello, diciamo, era mio cugino in secondo grado. Mario di queste cognate non faceva, Mario è una persona buona, bravissimo pugile, ma io non ho mai visto Mario piazzare risse, fare casino, anzi era sempre di quelli, un attimino, ragioniamo, faremo, come non so se tu conosci a Franco Vino, la stessa cosa, Franco ti dice, oh, non è il caso, qui, là, però non è rompere balla, se ti scudi già fu, Franco Vino di Val di Giorgio, di Capoteggio, capite, uno dei più bravissimi, bravissimi, butta fuori che ci sono ancora oggi, perché è il suo lavoro, ti avvisa, qua, io ti accompagno fuori, fai da bravo, non è il caso, ti sto dicendo che non è il caso, non è il caso, non è il caso, boom, e ti cu di volta che ti c'è bideggio. Mario era uno di quelli. Mario ha avuto una grandissima delusione, perché praticamente gli è venuta una congiuntivite all'occhio, ha iniziato a perdere gradi all'occhio e chiaramente se ne sono accorti in palestra e quindi hanno iniziato a farlo combattere meno, fino a quando in pratica la federazione, perché allora c'era anche Alberto Mura, la federazione non ha detto basta, no? Poi i combattimenti così a livello locale li puoi fare, i combattimenti a livello internazionale non li puoi fare più, perché era un professionista, non li puoi fare più. Da lì lui ha iniziato sia bene e sia a bucarsi, capito? Bucato c'è, infatti l'hanno avuto in camera gioia con la siringa attaccata, morto. Ha fatto una cazzata dalla vita, purtroppo. Beh, io chiudo che sono stanco, devo dormire, perché domani si travaglia. Ciao Gianni, ciao Claudio, grazie del QSO, ci sentiamo domani, ciao ciao, buonanotte a tutti. Ciao ciao a tutti, ci sentiamo, no? Ciao Anto, buonanotte, dai, saluti anche dell'aria. Capito? È così, una delusione allucinante, infatti passava spesso anche a trovare a mamma, a prendersi caffè, io dicevo, Mario, non ti cudi a terra, di appassa, no, di appi non ce la chiama, di appi no, non è così come dici tu, non è così come dici tu, io sono nato per fare bugirate, voglio fare bugirate, invece mi hanno esonerato, mi hanno buttato, ma ma c'è questo problema, no, mi interessa, io vi vengo, già vi vengo, riesco a combattere. Ed era bravissimo, e Mario era bravissimo. Era bravissimo. Infatti Alberto Mura glielo diceva, non ti preoccupare, come altrimenti li fai lo stesso, no, io voglio andare anche fuori a combattere, voglio continuare la mia carriera. Invece l'hanno stroncato la carriera e praticamente si è ammazzato, perché lui era nato per fare il pugile. Ehi, Luciano, il fratello, era una follia. Sì, sì, Luciano Falchi, sì, io lo so, lavoravo lì. E adesso lo sai cosa fa? No, è da tanto che non scendo più, non li vedo più. Allora, Luciano c'ha la palestra a Sassari. Una palestra, dove allena le persone, lui è proprio un allenatore di una palestra vicino all'Olimpia, ecco, all'Olimpia Cataluchino. Ah, la sua è quella. No, lo fa l'allenatore, c'ha questa palestra, non so se sia proprio la sua, però l'allenatore lì. Poi se la dovevo prendere una palestra, perché c'è una valigliana lì, capito, in palestra. E parlando ho scoperto che era mia moglie. Bravo anche lui. No, ma com'è qua? No, perché era mio cugino, ma Mario era bravissimo. Mario era bravissimo, una persona che ragionava, che sapeva ragionare. Prima di metterti le mani addosso contava sino a 10, ma poi non era un attaccabrighe. Era una persona rispettata, per carità, produttore, però era una persona che non aveva quelle cose che aveva quella gente lì, capito, quella grefalia. Chi c'era proprio, ti provocava le baffarlasci. Ti provocava le baffarlasci, capito? E quindi è così. Era così, però è andata male. Infatti la mamma poverina ha fatto una malattia, si è stata morì pruetta. Perché la mamma morta? Eh sì. Ma non lo sapevo. Abitavano lì a fianco al Turismarket di San Lei. Io lo so. Già un grido. Ma la mamma ti volevo fare con questo. Ma Gavina, la moglie di Domenico, ma è ancora viva o è morta? Questo non te lo so dire, io Gavina l'ho lasciata che era malata, aveva dimagrito un bel, non so cosa avesse, però aveva dimagrito, proprio attaccato mio amico a Tesienania, e già non so governo, e abitava lì, casa Petrarca, lì, o via Petrarca. Qui c'era la piazza dove c'era quel cancello, non so se ne sa dove abitava. Sì, casa di mio zio quella. Abitava a casa di Gian Mario Falchi, dell'avvocato Falchi. Se Gian Mario abitava sopra, lei abitava sopra, piano terra, dietro il Radio del Golfo, via Petrarca, ma lì il cancelletto era in piazza Petrarca. Sì. Praticamente io gli portavo anche la spesa. Portavo la spesa quando la faccia ruggia, proprio a piedi, non c'è problema, già capito, non c'è problema, te la porto. E la portavo a casa, mi offriva la bere, sempre la vita, sempre stata cordiale con me, ma raccontando di baracchina, che era via là, di tutto quanto, una volta che ha fatto tutto un bello, mi lasciavo più andare. Come vissuto io la bisignia quando era inviato le sacchi. Io stavo al baracchino con Domenico e la gente di Abbozzi. Ah, squali, vai a prendere un caffè e ti vado di Gavina. Cioè, ma mi sto andando un attimo a Gavina a prendere un caffè. Mi, non bere, perché ogni volta a bere un caffè come stavano i cicchetti di quei cosi, di quelli, di quegli affari che faceva lei, capito, quelli curi, quelle cosettine, quindi mamma non voleva, si cazzava sempre. Andavo sempre io, sempre. Anche quando era a bordo, lui era a bordo, ha iniziato col Moretto, poi è passato al Vincente, capito? Domenico era imbarcato lì nei rimorchiatori, ci andavo sempre anche quando andavano a prendere la nave, mi portava a me, andavo sempre. Era veramente, dove era mai già da vedi, allora pure valida bassa, veramente come se fosse io. Allora, sempre, chiamava, Domi, assendici, e diciamo, sto arrivando, vai la Vespa 50, te la metti. E a me più di una volta metta, io vengo a pigliare un caffè, no, resto non la farai, sono già in ritardo. No, ma è proprio, una volta mi sentivo al baracchino, io Pasquali, ma io ero a piedi, ero lì, due secondi, andavo e prendevo il caffè, bei tempi, per carità, e così è. Io non ci sono riuscito già, non ci sono riuscito per accontentare mia moglie, perché diceva la mamma qua, capito, diceva, c'è mamma qui, tua madre già c'ha gli altri figli a Porto Torres, cioè, cosa ci facciamo a Porto Torres, se no io non mi sarei mai spostato a Porto Torres, la casa me l'avrei fatta a Porto Torres, che non ti nascondo che anche da poco, ho detto, ma un'idea è, quando gli tu usci, non vai da solo a Porto Torres, tutta l'ora quando muore mamma, possiamo tranquillamente andarcene lì, non è un problema. Mi prendo le quote dei miei fratelli e la riscatto io. No, io ho pronto, io ci vado a abitare. Non ne vuoi di capito? Se no io mi sei rimasto a Porotoso, scatto ci faccio assassini. C'ho garage ora, non faccio nessuno assassini. Chi c'ho assassini? Nessuno. Tutti a Porotoso e Alghero sono. Sì, vabbè, già sei vicino. 20 km ci è arrivato, 20 minuti ci è a Porotoso. Non si nemmeno così lontano, se vuoi andare a trovare i pariti già ci puoi andare. Adesso vabbè che c'è questo cavolo di pandemia. Magari no, ma... prima si poteva fare, poi prima d'estate scendeva a Porto Torres, c'era sempre spettacolo, ma non so più che venuta. Prima c'era spettacolo da tutte le parti, andavi in piazza, c'era compreso, andavi in Piazza Garibaldi, si ballava, ma non è venuta. Adesso se non è che cambia il sindaco, cambia la situazione. No, già il bravo Mulas, già lo conosco. Oh, quell'altro mi stava un po' sulle balle, sinceramente parlando. Questo già è bravo. No, ma io sto parlando di Porotoso degli anni nostri già. Cioè, io ho 27 anni, ero già qua a Sassari, però io aspettavo il venerdì come qualcuno aspetta il Natale, per dire. Io dal venerdì sera, Porto Torres, rientravamo lunedì, perché dormivamo a casa di mamma, ma stavamo tutta l'estate a Porto Torres praticamente, capito? Perché c'era vita, adesso non c'è niente, c'era vita. I tre giorni della festa grande, io mi ricordo che era festa grande a vero, perché scendevano tutte le mie sorelle d'Alghero, eravamo riuniti tutti a casa di mamma, tre giorni, a pranzo e cena, capito? A casa di mamma è un bel grande, c'era una mansarda allucinante di 7 metri quadri, e lì mamma sempre lasciava tutti i tre giorni della festa grande, un tavolo grande, c'è la cucina, c'è il bagno sopra, quindi noi stavamo lì, ma niente bevendi. Cosa ridere, c'è che vera lo gojo, l'elettilometro, e poi in piazza, via, tutta la notte a girare le bancarelle, a continuare a via, a fare, che bei tempi, cazzo, che bei tempi, adesso è morto. Io sono sceso prima di iniziare questo cazzo di pandemia, 3 anni fa, d'estate, di sera, e poi ci accendiamo un po' al fresco a Porotoso, su un mortorio, non era nulla, non è più come gli anni che abbiamo conosciuto noi già, ci c'è lavorato una vita a Porotoso, se lo sai com'era, adesso non c'è più niente, hai ragione, è tutto molto. Andavi, per dire, in piazza, come di Via Dipendenza, e avevo trovato il complesso degli squali, te li ricordi gli squali? Che c'era Ennio Marcia di quelli. Poi sono andati in piazza, c'era un altro complesso, in piazza Garibaldi, c'è andato in piazza tutti col karaoke, cantando al karaoke. C'era una cosa allucinante, prima, infatti a Sassari non ci rimanevo mai, ma ne scendevo a Porto Torres perché c'era più festa. Lo sto dicendo, c'era vita, io lo stesso, noi ci eravamo presto, alle 8, alle 9 stavamo già scendendo, rientravamo alle 3, 4 del mattino, quando rientravamo, se no dormivamo direttamente a casa di mamma, mamma c'era la casa libera, sono 5 stanze, già. Quindi stavamo lì, ma proprio il periodo della festa grande. Poi sabato e domenica scendevamo il sabato da pranzo e lo stesso e ci rientravamo la domenica sera, capito, stavamo lì, però c'era vita, c'erano tutti più bar, c'erano più negozi, noi per voi, lui per lei, la Medusa, no, Cazzigiama, cioè c'era un sacco di bar aperti, la gelateria toscana, due gelati voglio mangiare anch'io. Sì, sì, sì. C'erano quei tipi prima, ci divertivo, e quando andavamo a Tortoli poi facevano quelle sagre in piazza, non so se ti ricordi, in piazza, al porto, quelle sagre dove c'era salsiccia, c'era tutto qua, c'era Luciano. Io me lo ricordo sempre perché noi mettevamo sempre il palloncino della Sisa, la mongolfiera, no, per fare pubblicità, e mettevamo anche i prodotti che davamo a questi esercenti per dare ai clienti, eccetera, eccetera. Davamo dei prodotti in omaggio, cose, noi del campo ci facevamo la pubblicità, capito? Facevamo mettere quel pallone che sembrava una mongolfiera che c'era scritto Sisa, grande. Sì, me lo ricordo. Poi c'è un legale, cioè, segnale di vestita Lutino Bologna, Silvano, Silvano Cruvetto, anche Gavino, Carlo Caravaglia, partecipavamo sempre ogni anno alla Corsa dei Sacchi, noi eravamo atleti, noi brincavamo un bel, Corsa dei Sacchi, la gara dei Garruzzi, guarda, era una cosa allucinante. Ci divertivamo un bel, con niente, con zero soldi, proprio con zero soldi. Adesso non c'è più niente, è proprio morto, mio fratello me lo dice, guai, perché ho la casa mia, sai, vendere, andare a comprare sassari. Se no dice, ho Alghero, ho lasciato Alghero, abitare, tanto ci lui va in pensione. Quest'anno mi pare, e non so se è a marzo o aprile. E quindi ne ha proprio le scatole piene perché non c'è più niente. Infatti è tanto lei, ma è questione di questa pandemia, ma cosa pandemia, è anni che così produttore, non è più valorizzata, non ci sono più feste di quartiere, non c'è più niente, mi ha detto. Sì, prima c'erano le feste al Santini, che c'erano le feste al Villaggio Verde, io non me ne sapevo una, io sapevo tutto, quindi dai miei colleghi dicevano, stasera c'è la festa al Villaggio Verde, ci vi. E andavo, capito, non me ne sapevo una. E mi vedevo come di sassarese, facevo di un po' di tutto. E adesso non è più tutta, non so perché, se è stato il sindaco. Tu hai detto che non ti era simpatico, io lo vedevo inadatto a fare il sindaco, un sindaco con l'orecchino, i capelli lunghi, che si presenta in cartoncini, nelle feste importanti, dove sono tutti in alto uniforme, e lì cartoncini curti, ciabatte, ma io... Io ho avuto anche un... Non è che ho bisticciato mio fratello, dice non è l'abito che fanno, ho capito Antonio, ma stai parlando del primo cittadino. Cioè a me va bene, l'abito non fa il monaco. Adesso ma tu non ti puoi presentare in TV, l'hanno intervistato una volta l'Antenna 1, e a me, cioè veramente da cittadino portotorrese, perché io sono sempre un cittadino portotorrese, anche se abito a Sassari, sono nato e vissuto a Portotorrese e mi sono vergognato. Con queste due orecchine da donna, grandi, grandi, questi due cerchi, il codino, ma dove stai andando? Ma tagliati i capelli, togliti queste orecchine, mettiti una cravatta ogni tanto. Uno zingaro. Mio fratello continuava a dire non è l'abito per far monaco, ma non c'entra niente. Per me rimane sempre il primo cittadino. Quando uno si parla di primo cittadino e parla di sindaco, primo cittadino vuol dire che deve dare l'esempio agli altri. Quindi a me non mi è mai piaciuto, a parte il fatto che un aino, a chi non ha fatto nulla, produttore, cioè com'era, è rimasta. Adesso vediamo Mulas cosa fa in più, ma comunque il prodotto non cambia, perché soldi non ce n'era come produttore, non c'è più niente, non ci sono fondi, non è nulla, capito? E comunque c'è un autore che anche se l'abito non fa il monaco, e uno si investe adeguatamente in certe occasioni, dove sono tutti in alto uniforme, c'era la marina, c'era la festa delle forze armate, mi pare una cosa del genere, tanti cartoncini. E più di una volta l'hai visto i cartoncini, una cena d'estate, perché l'hai mai visto vestito bene o d'inverno? Mai io l'ho vestito bene, mai. anche lui una volta letto, e certo ci potrebbe anche un po' sistemare, però è un bravo sindaco, ho capito, ma anche la presenza è una cosa importante, no? Molta gente l'ha criticata per come si presentava nelle riunioni e cose. Vabbè. Adesso ha cambiato, hanno votato altro sindaco, adesso vediamo, questo qua di che partito è. Già, non lo so, manco che giunta c'era, dottore, c'è la verità, perché non è che ne parlo molto con mio fratello, lui mi ha detto che è un bravo sindaco, penso che siamo centristi di centrodestra, perché prima erano di sinistra, mi sembra che abbia vinto il centrodestra, dottore. No, se Wheeler era 5 Stelle. I 5 Stelle di sinistra, come di destra? Di destra è Forza Italia, tutti quei partiti, Partito Salvo d'Azione, mi pare che abbiamo vinto loro. Mi pare che abbiamo vinto loro. Sì, sì. Adesso vediamo cosa combinano. C'era anche una mia collega che faceva, che era al comune, è morto anche Cosimo, lo sai, con DC. Con Conticelli, sì, Ciccio, sì, me l'ha detto mio cognato. Ciccio Conticelli, che sono siciliano. Come dice che stanno morendo? Mi hanno detto la madre di Gianni Fancillo è morta di coronavirus. Io lo so. Morto Franco Madeddu, non so se lo conoscevi, del Pisdat lo stesso, era consigliere comunale, è stato anche assessore. Non lo conoscevo. Facevano i cisti per lui. Non so quanti cisti faceva quello. Ui. Già intravagliavo un poco con Isci. Coetanea di mia sorella di Franca, quella di Alghero, una scuola assieme, infatti mi è dispiaciuto moltissimo, ha letto Giacomo Sanna a me. Giacomino, perché io sono da ragazzino, da quando c'era vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Torre Fadda, che è nato ed è morto, vabbè, Lupullu è morto, Giordo è morto, Pino Giordo è morto, Lupullu. Pisdat, quindi io sono di famiglia proprio Pisdat, perché anche Gabino Gaspa è mio cugino in primo grado, la mamma è Gabino Gaspa e Falchi, sorella di mamma, è tutta la greffa, quindi io sono del Pisdat, non mi muovo da lì, non mi sono mai mosso. E quindi li conosco tutti, mi è dispiaciuto tantissimo per Franco, ma ci picchiere, vedi? Ma Gabino Gaspa, chi è quello che fa movimento a terra, che c'ha il camion, che c'ha la busta? Quello è Bastianino, il fratello di Gabino. Ah, che Bassottino, abita in via Pascoli. E io. Gabino è quello che aveva l'elettrauto in via dell'Asia. Capito? L'elettrauto. È sposato con Masia, con Gatturini. Ah, ho capito chi è, sì. Ho capito chi è. E vabbè, più o meno io li conosco tutti, tre cotoni mi sono bruciato a Busidore. Quindi, bene o male, non li conosco magari per nome, ma li conosco di vista, ci salutiamo, magari non so il nome. Però conosco quasi tutti, addirittura sono andato a Sirmione una volta e mi sono trovato a questo qui e mi fa fatto di Bucciutore, sì, no? Sono di Sassa, perché? Ma lavora a volte, perché? Io seguo di Bucciutore, io sono il costruttore, non so, ma dico, vengo a fare i fanghi qua. Ehi, costruttore, c'è Giordo, c'è Aldo, quindi... C'è Giordo, c'è Aldo Fuis che ha preso le redini del babbo, poi chi c'è? Non mi ricordo. E il Gabino gli hanno bruciato la macchina da poco, è rientrato in comune, prima era uscito, poi l'hanno richiamato, presidente di commissione, aveva una presidenza di commissione, non so di che cosa, l'hanno bruciato la macchina, la classiamo qua nuova, lui e a Zicca. Vicino a casa l'altro giorno in via Florinas alle 4 hanno messo fuoco, alle 4 di sera, di pomeriggio, senza signora si è affacciato. cominciato a fumarsi la sigaretta, ha visto che stava prendendo fuoco, ha avvisato il padrone, è sceso con un bidone, è riuscito a spegnere, l'ha bruciato la ruota, il parafango e adesso l'ha già messo a posto. E la cosa dell'acqua, il contenitore dell'acqua per sfruttare il tergicristallo. Però ce l'ha fatta perché lui ha messo subito, ha buttato subito il bidone, ma poi si è sentato con l'altro bidone, l'ha buttato l'altro bidone e si è riusciti a spegnere. Ma devi stare attento alle cose mie. È successo qua vicino a casa, una volta non si poteva avvicinare nessuno. Ci stava avvicinando il padrone, ha scoppiato le vetre, giù c'è vedeccia. Capito? Quando c'è calore così non fa. Assolutamente. No, adesso arrivo là, intanto adesso chiudo, hai l'aria tra i bullati. Adesso sono seduti là da soli e adesso chiudo. Non si è potuto avvicinare, quindi la macchina si è disintegrata, assolutamente, proprio distrutta, un Audi A6 Station Wagon, cazzo là completamente disintegrata, infatti non sono arrivati i vigili del fuoco, non verrà rimasto più nulla. No, questo era l'inizio, proprio stavo appena uscendo la fiammella da sotto la volta, capito? Ha fatto il tempo e tempo a bloccare, infatti l'ha già aggiustata la macchina, solo che vicino a quella macchina si mette adesso, tu vedi che le macchine si mettono tutte lontane e poi la paura adesso è che diventano di nuovo fuoco, capito? Perché questo qua prima aveva un passato un po' più nascoso, nel senso che si faceva e poi ne è uscito fuori, adesso magari lo vogliono far rientrare nel giro e lui non vuole rientrare e stanno facendo di tutto per farli dispiegare. Ma come una volta sei così, che sia all'interno, poi esci, non è facile. È un casino, Va bene già, dai. La partita è finita, mi ha chiamato anche mia figlia. Poi vado un po' nel salone, dai. Grazie alle due chiacchiere. E ci sentiamo domani. Saluto anche tutti gli altri che sono in ascolto. Buonanotte a tutti, a domani. Gappa gappa. Ciao, buonanotte. Buonanotte anche agli ascoltori. Mi viene un bel, a lecce di buco. Ciao, ciao, domani. Ciao.